Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Da alcuni anni la ricerca in campo robotico è concentrata, tra le tante cose, diciamo, sullo sviluppo di robot morbidi oppure di robot flessibili, in contrapposizione con i robot rigidi a cui siamo abituati a pensare. Robot di questo genere possono infatti compiere una quantità di attività impossibili per dei robot composti da parti rigide e soprattutto sono molto più adatti al contatto e all'interazione con gli esseri umani e in generale con tutte quelle situazioni in cui si ha a che fare con qualcosa che dopo tutto è fragile. A Pisa, tra IIT, Istituto Italiano di Tecnologia, e Scuola Sant'Anna, c'è un polo di rilevanza mondiale in questo ambito di ricerca che ne sforna una dietro l'altra e noi spesso abbiamo parlato delle loro ricerche. E non facciamo eccezione questa sera, diamo il benvenuto a Edoardo Sinibaldi del Centro di Microbiorobotica dell'IIT di Pontedera. Buonasera. Buonasera a lei, grazie per l'invito. Allora, lei è responsabile di un progetto che ha portato alla messa a punto di un robot flessibile capace, diciamo così, di muoversi con una delicatezza unica. Cominciamo a descriverlo e poi vediamo insomma tutto il resto. E questo robot è costituito in realtà da due robot gemelli, identici uno all'altro, flessibili, che possono scorrere uno sull'altro, intrecciati come una doppia elica, diciamo, di DNA. Sono avvolti uno sull'altro. E come funziona? Come funziona, funziona il tutto? Funziona che ciascuno ha, diciamo, a turno viene irrigidito dando corrente al robot stesso e quindi la spina flessibile di ciascuno dei due robot funziona da guida per l'avanzamento dell'altro. Ecco. E questo permette a ciascuno di svilupparsi sopra l'altro. Perfetto, quindi diciamo, abbiamo due robot identici, sono un po' come delle colonne vertebrali, ognuno di questi, no? Sono fatti tanti dischi che sono in grado di flettersi, e alternativamente uno fa da supporto all'altro, si irrigidisce, l'altro gli cammina sopra, diciamo così. Poi quello che ha camminato si irrigidisce a sua volta e diventa supporto per il precedente. I ruoli sono perfettamente intercambiabili, quindi quello che avanza, che va in scoperta durante l'andata, seguirà nel ritorno. Ecco, che cosa consente di fare questa architettura, che tra l'altro non è simile a nessun'altra neanche esistente nel mondo biologico, che altri robot invece non erano in grado di fare? Voi soprattutto state lavorando sul tema dell'endoscopia, evidente, no? Quando si infila qualcosa nel corpo umano è meglio che sia perlomeno o morbido o flessibile, magari anche tutte e due. Questo robot, rispetto a qualsiasi altro oggetto finora visto, ha una caratteristica: può percorrere una traiettoria curva costruendola fisicamente, cioè avanzando con tutto il corpo sulla traiettoria. E questo nell'applicazione medica che lei diceva è fondamentale, perché in molti casi il chirurgo vuole entrare da una porta, ad esempio sulla cavità addominale, raggiungere un target andando ad evitare gli organi che sono frapposti, non toccandoli. E questo strumento permette aggirandoli letteralmente, aggirandoli, no? Sì, okay, esatto. Ok, ecco, cioè gli strumenti attuali sono flessibili ma in testa sostanzialmente, quindi riescono a evitare con la testa di toccare un ostacolo ma non riescono a tenersene lontani e intanto girarci attorno e così via. E invece questo robot è questo che è in grado di fare? Assolutamente sì, per la prima volta, e il fatto di avere due sistemi identici in qualche maniera simbionti ha permesso questo, cioè il controllo di tutta la forma del corpo e non solamente delle estremità. Quando arriveranno le prime applicazioni? Voi sulle applicazioni in campo medico chirurgico ci state già lavorando e avete già delle idee precise, c'è anche un brevetto, no? Sì, c'è un brevetto prima nazionale e poi internazionale, che ha dimostrato il principio del robot e una prima implementazione. In questo momento noi dobbiamo focalizzare nell'applicazione medica, perché le dimensioni vanno ridotte rispetto al prototipo che abbiamo fatto per entrare appunto nelle aperture naturali del corpo umano, pensi all'ombelico nel caso della cavità addominale, e una volta focalizzata, diciamo, l'applicazione, nel giro di 3-5 anni dei prototipi molto più avanzati potrebbero essere disponibili, ma quindi già immaginiamo 5 anni in un ospedale, può essere che ci sia qualcosa? Ci possiamo avvicinare, va bene. Senta, abbiamo parlato di applicazioni nel campo cosiddetto dell'endoscopia. Quali sono altre situazioni in cui un robot di questo genere può essere importante? Questa capacità di evitare di andare, diciamo, a ispezionare senza toccare permette, diciamo, il suo utilizzo in svariatissimi ambiti, tra cui tutti quelli in cui si vuole ispezionare una struttura chiusa, un locale chiuso. Lei pensi, diciamo, un armadietto con dei componenti elettronici che sono in un satellite, oppure in una macchina difficile da disassemblare. Ma viene in mente una bomba, per esempio, ma so. Si possono anche pensare, diciamo, a delle applicazioni di questo in cui genere. Il robot non deve toccare qualcosa che possa essere pericoloso. Però, rimanendo in ambito, diciamo, meno cruento, sì. L'ispezione cosiddetta senza contatto, che ha un mercato amplissimo, questa tecnologia che noi abbiamo costruito si applica tale e quale, sia la parte medica che la parte dell'ispezione. Per esempio, parlando con un collega giapponese, mi ha evidenziato come questa stessa tecnologia su una scala più grande potrebbe essere utilizzata per cercare delle persone o degli oggetti in ambienti colpiti da calamità. Sotto delle macerie, per esempio, assolutamente, no? Assolutamente sì, con lo stesso principio. Sempre quello, insomma, di riuscire ad aggirare qualunque ostacolo e possibilmente anche a non toccarlo. Costruendo fisicamente il proprio percorso, non toccando, perché laddove non si sa appunto il rischio che si corre non si vuole toccare. Ah certo, perché sotto in una situazione del genere magari smuovere delle macerie può essere anche pericoloso, perché può determinare ulteriori crolli. Questo strumento prevede la possibilità di avere dei canali di lavoro in cui, con cui portare delle fibre ottiche, delle telecamere alla testa per poter ispezionare l'ambiente in cui si opera mano a mano che lo strumento viene dispiegato. Grazie allora Edoardo Sinibaldi e in bocca al lupo. Grazie a voi, capi il lupo. Ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento come sempre a domani.